ad alta voce. Elia Shilton legge Anton Chekhov. Grisha. Grisha, piccino ben paffuto, nato 2 anni e 8 mesi fa, passeggia con la bambinaia per il viale. Ha indosso una lunga mantellina ovattata, una sciarpa, un grosso berretto col bottone peloso e le calosce imbottite. Sente un caldo da soffocare e, per giunta dal cielo rasserenato, il sole d'aprile gli batte proprio negli occhi e gli molesta le palpebre. Tutta la sua goffa figura, dal passo timido e mal sicuro, esprime il più profondo sconcerto. Finora Grisha non ha conosciuto che un mondo quadrangolare, in un angolo del quale sta il suo lettino, in un altro il baule della bambinaia, nel terzo c'è una sedia e nel quarto s'accende la lampada. Se si dà un'occhiata sotto il letto, si vede una bambola con un braccio rotto e un tamburo, mentre dietro il baule della bambinaia ce n'è delle cose assortite: rocchetti senza più filo, fogli di carta, una scatoletta senza coperchio e un pagliaccio fracassato. In codesto mondo, oltre la bambinaia e Grisha, compaiono spesso la mamma e il gatto. La mamma rassomiglia alla bambola e il gatto rassomiglia alla pelliccia di papà, soltanto che la pelliccia non ha quegli occhi né quella coda. Dal mondo che si chiama stanza del bambino, una porta mette in quel vasto spazio dove si pranza e si prende il tè. Là sta il seggiolone di Grisha dalle alte zampe e pende l'orologio, che è fatto per l'unico scopo di dondolare il pendolo e di sonare. Dalla sala da pranzo si può passare in una stanza dove sono certe poltrone di legno rosso. Ivi sul tappeto nereggia una macchia, per cui Grisha si vede a tutt'oggi minacciare col dito. E di là, da questa stanza, ce n'è ancora un'altra dove non è permesso entrare e ne balugina la figura del babbo, personalità quanto mai enigmatica. La bambinaia e la mamma sono comprensibili. Esse vestono Grisha, gli danno da mangiare e lo mettono a letto. Ma cosa ci stia a fare papà non si sa davvero. E un'altra personalità enigmatica è la zia, quella che ha regalato a Grisha il tamburo. Essa ora appare, ora sparisce. Dove va a sparire? Grisha ha provato parecchie volte a guardare sotto il letto, dietro il baule e sotto il divano, ma lì non c'era. Ed ecco che in questo nuovo mondo dove il sole ferisce gli occhi, ce n'è tanti di papà, di mamme e di zie, che non sai da chi andare a rifugiarti. Ma la cosa più strana e più balorda di tutte sono i cavalli. Grisha rimane fisso a tutte quelle zampe in movimento e non riesce a capirci un H. Alza gli occhi alla bambinaia, che illumini il suo sconcerto, ma quella non apre bocca. Tutto a un tratto gli giunge un tremendo calpestio. Lungo il viale, a passo cadenzato, viene avanti, dritta dritta su di lui, una folla di soldati rossi in faccia, con le spazzole da bagno sotto l'ascella. Grisha si raggela tutto dal terrore e dà alla bambinaia un'occhiata interrogativa. Non è pericoloso? Ma la bambinaia non scappa e non piange, dunque pericoloso non è. Grisha accompagna con lo sguardo i soldati e comincia anche lui a camminare a tempo con loro. Attraversano il viale di corsa 2 grossi gatti lunghi di muso, con le lingue penzoloni e con le code erette all'insù. Grisha pensa che anche lui deve correre e si mette a correre appresso a quei gatti. «Fermo!» gli grida la bambinaia, afferrandolo sgarbatamente alle spalle. «Dove vai? Credi di poter far la birba?» Ma ecco, là, un'altra specie di bambinaia che sta seduta e tiene una cassettina piena d'arance. Grisha le passa accanto e zitto zitto si piglia un'arancia. «Ma cosa fai?» lo sgrida la bambinaia sua, dandogli uno schiaffo alla mano e strappandogliene l'arancia. «Stupido!» Ora a Grisha piacerebbe assai prendere su da terra un vetrino che gli vien lì sotto i piedi e brilla come un lumino, ma ha paura che di nuovo gli tocchi una botta sulla mano. Riverisco, signorina. Gli risuona d'improvviso, proprio quasi nell'orecchio, una sonora voce baritonale e scorge, alto, un uomo luccicante di bottoni. Con grandissimo piacere suo, quest'uomo dà la mano alla bambinaia, si sofferma con lei e comincia a discorrerci insieme. Lo sfavillio del sole, il rombo delle carrozze, i cavalli, il luccichio dei bottoni sono tutte cose d'una novità così impressionante, ma non paurosa, che l'anima di Grisha si riempie d'un senso di piacere e gli vien fatto di dare in una risata. «Andiamo! Andiamo!» grida all'uomo dai bottoni che luccicano, tirandolo per la falda della giubba. «Dove andiamo?» domanda l'uomo. «Andiamo!» insiste Grisha. Vorrebbe dire che non sarebbe mica male portar dietro con sé a questo modo il babbo, la mamma e il gatto, ma la lingua dice tutt'altre cose da quel che dovrebbe. Qualche momento dopo, la bambinaia svolta dal viale e conduce Grisha in un gran cortile dove ancora regge la neve. L'uomo coi bottoni luccicanti viene anche lui dietro a loro. Cansano attentamente i mucchi di neve e le pozzanghere, quindi per una sudicia buia scaletta entrano in una stanza. Lì dentro c'è un gran fumo, si sente odor d'arrosto e una donna intorno alla stufa sta a cuocere le costolette. La cuoca e la bambinaia si baciano e insieme con l'uomo si siedono su una panca e cominciano a parlare a bassa voce. Grisha, così imbacuccato, si sente andare a fuoco e mancare il fiato. «Perché staremo qui?» pensa guardandosi intorno. Scorge quel soffitto fosco, quelle molle con tanto di corna, quella stufa che guata in qua col suo grosso nero buco. «Ma, mamma!» dà un lamento. «Su, su!» lo sgrida la bambinaia. «Aspetta un po'!» La cuoca mette in tavola una bottiglia, due bicchierini e un pasticcio dolce. Le due donne e l'uomo coi bottoni luccicanti cozzano i bicchieri e bevono a più riprese, e intanto l'uomo abbraccia ora la bambinaia, ora la cuoca, e finalmente tutte e tre insieme cominciano a mezza voce a cantare. Grisha si protende verso il dolce e gliene vien dato un pezzetto. Lui mangia e guarda bere la bambinaia. Anche a lui si fa voglia di bere. Da qua, baglia, da qua!» le chiede. La cuoca gli dà a sorseggiare dal bicchierino suo. Lui strabuzza gli occhi, torce tutto il viso, comincia a tossire e per un pezzo continua ad annaspar con le mani mentre la cuoca lo guarda e ride. Ritornato a casa sua, Grisha si mette a raccontare alla mamma, alle pareti e al letto, dove è stato e che ha visto. Parla non tanto con la lingua, quanto col viso e con le mani. Fa vedere come sfolgora il sole, come corrono i cavalli, come guata quell'orrida stufa e come canta la cuoca. La sera non riesce in nessun modo a prender sonno. Quei soldati con le spazzole, quei grandi gatti, quei cavalli, quel pezzetto di vetro, quella cassettina d'arance, quei bottoni luccicanti si son fusi insieme in un cumulo che gli opprime il cervello. Si rivoltola ora su un fianco, ora sull'altro, chiacchiera e tanto fa che da ultimo, non sopportando la sua stessa eccitazione, scoppia a piangere. «Ma tu hai la febbre?» dice la mamma toccandogli col palmo della mano la fronte. «Oh, da che cosa potrà mai dipendere?» La stufa!» piange Grisha. «Vattene via, brutta stufa!» «Probabilmente ha mangiato troppo», sentenzia la mamma. E Grisha, squassato fino in fondo all'essere dalle impressioni di quella vita nuova, che per la prima volta ha intravista, si busca dalla madre una cucchiaiata di olio di ricino. Il racconto del giardiniere capo. Nella serra dei Conti N c'era una vendita di fiori. I compratori erano pochi, un proprietario mio vicino, un giovane mercante di legname e io. Mentre gli operai portavano fuori i nostri magnifici acquisti e li disponevano sui carri, noi eravamo seduti all'ingresso della serra e discorrevamo del più e del meno. In un tepido mattino d'aprile è straordinariamente piacevole stare in un giardino, ascoltare gli uccelli e vedere i fiori tratti fuori in libertà crogiolarsi al sole. Dirigeva il carico delle piante lo stesso giardiniere Mikhail Karlovich, un vecchio rispettabile dalla faccia tonda rasata con un panciotto di pelliccia e senza giacca. Egli se ne stava silenzioso, non prestava orecchio alla nostra conversazione, attendendo che dicessimo qualcosa di nuovo. Era un uomo intelligente, assai buono, stimato da tutti. Tutti chissà perché lo credevano un tedesco, benché suo padre fosse svedese, sua madre russa, ed egli frequentasse la chiesa ortodossa. Parlava il russo, lo svedese e il tedesco, leggeva molto in queste lingue, e non si poteva procurargli piacere più grande che dargli a leggere un qualche nuovo libro o parlare con lui, per esempio, di Ibsen. Aveva alcune debolezze, innocenti però, così usava chiamarsi giardiniere capo, benché di subalterni non ce ne fossero. L'espressione del suo volto era quanto mai grave ed altera. Non ammetteva di essere contraddetto e gli piaceva essere ascoltato con serietà ed attenzione. «Questo giovanottino, ve lo raccomando, è un tremendo furfante», disse il mio vicino, indicando un operaio dal volto bruno zingaresco che ci passava accanto su una botte d'acqua. «La settimana scorsa in città fu processato per rapina e assolto. Gli fu riconosciuta l'infermità mentale e tuttavia guardate il suo ceffo, è arcisano. In questi ultimi tempi in Russia un po' troppo spesso si assolvono i furfanti, spiegando tutto con gli stati morbosi e gli attacchi di nervi. Intanto queste sentenze di assoluzione, questa evidente debolezza e indulgenza non portano a nulla di buono. Demoralizzano la massa, il senso della giustizia si è attutito in tutti, poiché ci si è abituati ormai a vedere il vizio impunito, e sapete, del nostro tempo si può arditamente affermare con le parole di Shakespeare, nella nostra epoca malvagia e corrotta, anche la virtù deve domandar perdono al vizio. È vero, annuì il mercante. Per il fatto che i tribunali assolvono, gli omicidi e gli incendi dolosi si sono fatti molto più numerosi. Domandate ai musichi. Il giardiniere Mikhail Karlovich si volse verso di noi e disse: «Per quanto riguarda me, signori, io accolgo sempre con entusiasmo le sentenze di assoluzione. Io non ho timori per la virtù e per la giustizia quando dicono innocente. Al contrario, ne provo piacere. Perfino quando la mia coscienza mi dice che assolvendo un delinquente i giurati hanno commesso un errore, anche allora sono esultante. Giudicate voi stessi, signori. Se i giudici e i giurati credono più all'uomo che agli indizi, alle prove materiali e alle requisitorie, questa fede nell'uomo non è forse di per sé stessa superiore a tutte le considerazioni del mondo? Questa fiducia è accessibile solo a quei pochi che comprendono e sentono il Cristo. Ah, ecco una buona idea, dissi io. Ma non è un'idea nuova. Mi ricordo pure di aver inteso una volta, molto tempo fa, una leggenda su questo tema. Una leggenda molto graziosa, disse il giardiniere sorridendo. Me la raccontava la mia nonna defunta, la madre del babbo, un'ottima vecchia. Lei me la narrava in svedese, in russo, non riesce così bella, così classica. Noi lo pregammo di raccontarcela senza badare alla rozzezza della lingua russa. Molto contento, egli accese la sua pipetta con stizza guardò i suoi operai e cominciò. In una piccola cittadina andò ad abitare un signore attempato, solo e brutto, che si chiamava Thompson o Wilson, fa lo stesso, insomma la faccenda non sta nel suo cognome. Esercitava una nobile professione, curava la gente, era sempre arcigno e poco socievole e parlava soltanto quando lo esigeva la sua professione. Non faceva visita a nessuno, non spingeva la conoscenza con alcuno più in là di un silenzioso cenno di saluto e viveva modestamente come un asceta. E il fatto è che egli era uno scienziato e a quel tempo gli scienziati non somigliavano ai comuni mortali. Essi passavano giorni e notti nella meditazione, nella lettura dei libri e nel curare le malattie, consideravano tutto il resto come cose banali e non avevano il tempo di dire parole superflue. Gli abitanti della città capivano benissimo tutto ciò e cercavano di non importunarlo con visite e con vane chiacchiere. Essi erano molto contenti che Dio finalmente avesse mandato loro un uomo che curasse le malattie ed erano orgogliosi che una persona così ragguardevole vivesse nella loro città. «Egli sa tutto», dicevano di lui. Ma questo non bastava. Si sarebbe anche dovuto dire «Egli ama tutti». Nel petto di quello scienziato batteva un cuore meraviglioso. Angelico, comunque fosse, gli abitanti della città erano per lui degli estranei, non dei parenti, ma egli li amava come figli e per loro non risparmiava nemmeno la propria vita. Egli stesso aveva la tubercolosi e tossiva, ma quando lo chiamavano presso un malato dimenticava la propria malattia, non risparmiava se stesso e ansando s'arrampicava sui monti per quanto alti fossero. Non si curava del caldo e del freddo, sprezzava la fame e la sete, non accettava danaro e, cosa strana, quando moriva un suo paziente ne seguiva la bara insieme coi parenti piangendo. Ben presto egli divenne così indispensabile per la città che gli abitanti si meravigliavano di aver potuto per là dietro fare a meno di quell'uomo. La loro riconoscenza non aveva limiti. Grandi e piccini, buoni e cattivi, onesti e bricconi, tutti in una parola lo stimavano e conoscevano il suo valore. Nella cittadina e nei dintorni non c'era persona che si permettesse non già di fargli alcunché disgradito, ma neppure di pensarci. Uscendo di casa sua, egli non chiudeva mai porte e finestre con la piena sicurezza che non ci fosse un ladro capace di volergli recar danno. Per i suoi doveri di medico, gli toccava spesso percorrere le grandi strade, attraverso boschi e monti dove erravano una quantità di vagabondi affamati, ma egli si sentiva del tutto al sicuro. Una volta, mentre tornava di notte dalla casa di un malato, lo assalirono in un bosco dei briganti, ma, riconosciutolo, si levarono rispettosamente il cappello davanti a lui e gli domandarono se voleva mangiare. Quando egli rispose che non aveva fame, gli diedero un pesante mantello e lo scortarono fino alla città, felici che il destino avesse offerto loro l'occasione di dimostrare in qualche modo la propria riconoscenza verso quell'uomo magnanimo. Si capisce, mia nonna raccontava poi che perfino i cavalli, le mucche e i cani lo riconoscevano e incontrandosi con lui gli esprimevano la loro gioia. E quest'uomo, che per la sua santità pareva essersi premunito contro ogni male, al quale testimoniavano la loro benevolenza perfino i banditi e i forsennati, una bella mattina fu trovato ucciso. Coperto di sangue, col cranio spaccato, egli giaceva in un burrone e il suo pallido viso esprimeva lo stupore. Sì, non lo spavento, ma lo stupore si era fissato sul suo volto quando aveva veduto davanti a sé l'assassino. Potete ora figurarvi il dolore che invase gli abitanti della città e dei dintorni. Pieni di disperazione, non potendo credere ai loro occhi, tutti si domandavano chi avesse potuto uccidere quell'uomo. I giudici che eseguirono l'inchiesta ed esaminarono il cadavere del dottore dissero così: «Qui noi abbiamo tutti gli indizi di un assassino, ma poiché non esiste al mondo un uomo che potesse uccidere il nostro dottore, evidentemente qui non c'è assassino e il cumulo degli indizi è solo una pura coincidenza. Bisogna supporre che il dottore nell'oscurità sia caduto da sé nel burrone e si sia ferito mortalmente. Tutta la città fu di questo parere. Il dottore venne sepolto e nessuno parlò più di morte violenta. L'esistenza di un uomo capace dell'abiezione e dell'infamia di uccidere il dottore pareva inverosimile. Infatti, anche l'infamia ha i suoi limiti, non è così? Ma, all'improvviso, figuratevi un po', il caso fece scoprire l'assassino. Era stato visto uno sciagurato, già condannato più volte e noto per la sua vita depravata, vendere alla bettola l'orologio che erano appartenuti al dottore. Quando presero a mostrargli le prove del delitto, egli si turbò e disse una menzogna evidente. Venne fatta una perquisizione in casa sua e fu trovata nel suo letto una camicia con le maniche insanguinate e la lancetta del dottore montata in oro. Quali altre prove occorrevano ancora? Il delinquente fu messo in prigione. Gli abitanti erano indignati, al tempo stesso dicevano: «Ma è incredibile, non può essere, guardate che non ci siano degli errori, infatti accade che le prove dicano il falso». In tribunale l'assassino negò ostinatamente la sua colpa. Tutto parlava contro di lui e convincersi della sua colpevolezza era tanto facile quanto credere che questa terra è nera, ma i giudici parevano usciti di senno. Soppesavano ogni prova 10 volte, guardavano con diffidenza i testimoni, arrossivano, bevevano acqua. Il processo cominciò al mattino presto e terminò soltanto la sera. «Imputato!» si rivolse il presidente all'omicida. «Il tribunale ti ha riconosciuto colpevole dell'omicidio del dottore tal dei tali e ti condanna a...» Il presidente voleva dire «alla pena di morte», ma lasciò cadere dalle mani la carta sulla quale era scritta la sentenza, si asciugò il sudor freddo e gridò: «No! Che Dio mi punisca se giudico erroneamente, ma giuro che egli non è colpevole! Non ammetto l'idea che si possa trovare un uomo che abbia avuto il coraggio di uccidere il nostro amico dottore! L'uomo non è capace di cadere così in basso! No, non ci può essere un uomo simile!» ammisero gli altri giudici. «No, no!» fece eco la folla. «Mettetelo in libertà!» L'assassino fu messo in libertà e non un'anima tacciò i giudici di ingiustizia. «E Dio, diceva mia nonna, per una tale fede nell'uomo, perdonò i peccati a tutti gli abitanti della città. Egli esulta quando si crede che l'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza e si affligge se, dimenticando la dignità umana, si giudica che gli uomini siano peggio dei cani. E sia pure che una sentenza di assoluzione abbia recato danno agli abitanti della piccola città. Ma, in cambio, giudicate voi, quale benefica influenza abbia avuto su di loro questa fede nell'uomo, fede che non può restare lettera morta. Essa sviluppa in noi dei sentimenti generosi e incita sempre ad amare e a stimare ogni uomo. Ogni uomo! E questo è importante». Mikhail Karlovich aveva terminato. Il mio vicino voleva obiettargli qualcosa, ma il giardiniere capo fece un gesto che significava che non gli piacevano le obiezioni. Poi s'allontanò verso i carri e, con un'aria di importanza in volto, continuò ad occuparsi del carico. Elia Shilton ha letto Anton Chekhov, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it